Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Aprite il portafoglio e contate quante carte fedeltà avete, poi cercate di ricordare quante raccolte punti avete fatto, avete in corso e quali premi vi siete aggiudicati. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali per il meglio di la selezione estiva dei temi di Essere Avere. Torniamo a parlare dei loyalty program, i programmi fedeltà delle aziende. Cercheremo di scoprire quali siano i vantaggi per i consumatori, quali per le aziende. Come saranno le librerie del futuro? Come si trasformeranno sulla scia della prevedibile diffusione delle vendite online e dell'ebook? Nel secondo dei nostri approfondimenti diventano protagonisti i libri, uno dei beni di consumo che in questi ultimi anni ha visto rivoluzionare il sistema della distribuzione e della promozione. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare di abiti usati e riciclo virtuoso e per il focus sui trend di videogame mania, quando i videogiochi fanno tendenza. La borsa della spesa. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio, ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini. Li adoro. Questo è razzismo. Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima. Mi deve spiegare questa cosa delle miglia, come funziona? Io accumulo il maggior numero di miglia possibile. Siamo due persone attizzate dall'elite status. Bella intuizione il portasciugamani. Peccato non essere arrivati all'armadio. Dobbiamo farlo ancora. Era Up in the Air, Tra le nuvole, film con George Clooney, molto apprezzato tra i candidati all'Oscar di quest'anno. È la storia di un tagliatore di teste che gira in lungo e in largo gli Stati Uniti ed è ossessionato dalle miglia delle compagnie aeree. Una mania comune a molti viaggiatori, così come lo sono i bollini spesa del supermercato o i premi offerti dalle centinaia di loyalty program, i programmi fedeltà delle aziende. Dai benzinai ai supermercati, passando per grandi magazzini, carte di credito e singoli prodotti, dal latte ai biscotti. È un'attività a tempo pieno la caccia ai bollini delle raccolte punti e non c'è limite alle categorie di premi. Dai piatti agli ombrelli, dai televisori alle valigie, fino ai biglietti aerei e ai buoni sconto per le vacanze. Gli hotel a 5 stelle offrono come super premi eventi unici, dagli inviti per i galà più esclusivi agli incontri privati con le star di Hollywood, fino alle lezioni di cucina con gli chef più famosi. Almeno 40 milioni le carte fedeltà in circolazione. Li usano l'80% dei clienti dei supermercati, per lo più donne tra i 25 e i 35 anni, evidenzia una ricerca realizzata dall'Università Bocconi. Premio preferito, il buono sconto, che mette tutti d'accordo, tanto la clientela poco propensa, quanto quella più favorevole. Tra i programmi fedeltà, quello più apprezzato resta la classica raccolta punti, che raccoglie il 38% dei consensi, seguita dalla possibilità di far parte di un club di sconti per riduzioni in ristoranti, negozi, palestre, che registra il 27% delle preferenze. Più distaccati i premi a estrazione. Dopo anni di boom in cui le carte fedeltà in certi casi sono arrivate addirittura a rappresentare uno status symbol, da un po' di tempo si è fatta strada una certa diffidenza nei confronti delle carte fedeltà. Vuoi per il calcolo dei vantaggi effettivi per i consumatori, fatti i conti a volte sono molto limitati, vuoi per i problemi legati alla privacy, le informazioni che le aziende ricavano dai moduli di adesione e dall'uso delle carte fedeltà. Un tema sul quale si è pronunciato più volte anche il garante della privacy. C'è una crisi d'immagine per i programmi fedeltà? Quale sviluppo avranno nel futuro? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Ordanini, vice direttore del centro di ricerca Customer and Service Science Lab dell'Università Bocconi, che ha effettuato la ricerca. Il tema riguarda proprio la fedeltà, cioè quello che sembrano non più garantire queste carte fedeltà è la fedeltà. È probabile che siamo in una fase di trasformazione del ruolo di queste carte fedeltà così come sono state concepite. Si parla in generale di prodotti fedeltà, ma in realtà quello che è emerso è che i programmi fedeltà o le raccolte appunti più efficaci sono quelle che non sono omogenee, ma sono personalizzate e segmentate in modo molto accurato all'interno della clientela. I vantaggi ci sono sicuramente, nel senso che sono effettivamente legati alla possibilità di quasi, oserei dire, anche selezionare i clienti migliori e quindi di poter dare a questi clienti migliori un reward adeguato. Ce ne sono anche nella possibilità di sperimentazione di nuove soluzioni attraverso forme di promozione. Ci stanno già studiando programmi in cui è il consumatore stesso a definire il suo profilo di premio ideale. Prima di fare la promozione definisce il premio e poi fa un programma appunti per l'ottenimento di quello specifico unico premio che si è definito. Quindi questo ribalta completamente la logica del famoso catalogo che noi tutti siamo abituati a sfogliare e a mettere orecchie alle pagine per quelli che sono i premi che più o meno ci piacciono o ci possono interessare. Ma i consumatori sono consapevoli dei rischi per la privacy? È un prezzo che sono disposti a pagare in cambio dei premi? Non sono sicuro della completa consapevolezza del consumatore rispetto alla mole di informazioni che attraverso meccanismi di questo tipo le aziende riescono a raccogliere. Ma altrettanto oserei dire che forse quando il consumatore è messo di fronte al fatto che le aziende sanno cosa tu compri, quando lo compri, quanto ne compri, alla fine forse le implicazioni in termini di privacy e di dati sensibili forse non sarebbero così gravi, non lo so. Diciamo che non è un tema, secondo me, dirimente per il futuro / successo di questi progetti. Questa settimana la nostra shopping bag è piena zeppa di libri, ci concentriamo sul consumo di libri in Italia. I numeri, le nuove formule retail e le nuove frontiere della promozione. Quasi 1.400.000.000 di euro di ricavi, con un fatturato in crescita del 3%. Sono i numeri in controtendenza rispetto alla crisi registrati nel 2009 dal mercato del libro in Italia, libri scolastici esclusi, secondo i dati forniti dall'AIE, l'Associazione Italiana degli Editori. La crescita però ha premiato soltanto i gruppi maggiori. Lo certifica il peso delle grandi catene di librerie, che da un anno all'altro sono passate dal 36 al 37,4% del mercato, mentre le librerie indipendenti sono calate dal 43 al 40,9%. Nei primi 4 mesi del 2010 spicca il boom di Feltrinelli, che segnala vendite in crescita del 40%. Nella distribuzione è già iniziato un valzer di acquisizioni e concentrazioni che, dicono gli osservatori, ristrutturerà completamente il settore. La prima joint venture è quella formata dal gruppo Giunti e dalle Messaggerie. Unendo i rispettivi comparti distributivi, le case editrici sono rimaste autonome, hanno dato vita a un colosso che controlla il 30% delle vendite di libri in Italia, con posizioni di forza nella grande distribuzione e online, il canale che gli esperti indicano come il più promettente per il futuro. Abbiamo sentito nella scheda il ruolo di primo piano delle grandi catene che sono state quelle che hanno trasformato le librerie in veri e propri concept store, con ristoranti, spazi eventi e un'offerta merceologica molto ampia, non più limitata solo ai libri. Com'è cambiato il modello di vendita e di promozione del libro in questi ultimi anni? Lo abbiamo chiesto a Sandro Castaldo della Sda Bocconi. Certamente la distribuzione del libro, appunto la vendita al dettaglio del libro, ha seguito un po' l'evoluzione di tutti i settori della distribuzione in genere, di qualsiasi tipologia di prodotto. In più si è aggiunta una evoluzione qualitativa dello shop, del punto di vendita, che è diventato un vero e proprio punto di incontro con tutta una serie di servizi accessori. Il libro rappresenta un po' il prodotto per eccellenza di questa nuova economia della conoscenza, ha tutti i requisiti per essere distribuito sul mercato con modalità molto simili a quelle che vengono utilizzate per tutta una serie di categorie di prodotto come appunto i beni di consumo. Infatti troviamo il libro anche nell'ambito di supermercati e ipermercati, si utilizzano promozioni di prezzo, promozioni collegate alla fedeltà dei clienti, quindi sistemi di loyalty card e via dicendo, e anche la comunicazione è sempre più assimilata, è sempre più vicina a quella dei beni di di consumo, utilizzando anche tutte quelle che sono le opportunità che oggi i nuovi media, in particolare internet, mettono a disposizione. Ma come conviveranno le vendite online con quelle offline? E poi come sarà la libreria del futuro se gli ebook, come sembra, prenderanno il sopravvento? Ancora Castaldo. Sicuramente ci sarà una grande interazione, e non solo un'interazione competitiva tra l'online e l'offline, ma anche un'interazione collaborativa. Probabilmente, diciamo, l'online aiuterà anche un ampliamento del mercato e l'offline potrà essere aiutato e supportato dalla comunicazione e dalla disponibilità di cataloghi virtuali. Abbiamo un interessante benchmark che è il mondo della musica, è un altro mondo che è stato digitalizzato in qualche modo, forse un po' prima del mondo dell'editoria, diciamo, libraria. Non è, diciamo, difficile immaginare che tra un po' si possano creare situazioni tipo iTunes, no? Quello che è successo nel mondo della musica con i libri. Non credo che andremo in una situazione, diciamo, di assenza assoluta di libri, ma certamente ci sarà un'evoluzione significativa e probabilmente la libreria e la distribuzione del libro diventeranno sempre più luoghi di relazioni, ma probabilmente il prodotto, come succede nel cloud computing, no, nel computer che è sulle nuvole, sarà un po' sulle nuvole, sarà un po' etereo, un po', come dire, non facilmente tangibile, un po' come la conoscenza. Ora cambiamo argomento. Lo sapete che i prodotti tessili rappresentano una percentuale in forte aumento dei rifiuti domestici? In Inghilterra una commissione del governo ha puntato il dito contro la cultura della fast fashion, che avrebbe contribuito a portare questa percentuale al 3% circa, vale a dire quasi 1 milione di tonnellate ogni anno. Con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, torniamo a parlare di abiti usati e riciclo. Personale di H&M a New York, nel centralissimo negozio di Herald Square, è stato sorpreso a gettare borse di indumenti invenduti per la distruzione. L'azienda ha smentito seccamente, ma guarda caso lo stesso incidente è occorso al leader mondiale dei commercianti, Walmart. Eppure il mercato del second hand, dell'usato, ha un suo significato commerciale e sociale. Prendiamo il caso di Patagonia, brand dello sport tecnico. Ritira un numero consistente di capi in catalogo e li ricicla per ricavare altri capi nuovi. E questo, lo sappiamo, si chiama sostenibilità. Levi's, Levi's, quelli dei jeans, ritirano i capi sia per sostenere le vendite sia per trovare nuovi canali di commercializzazione, ma anche per evitare che milioni di jeans prendano la via delle discariche. Elena Miró, del gruppo Miroglio, ritira anch'essa i capi, lavati e in ordine, certamente, per destinarli alle associazioni benefiche. Uniqlo, il retailer giapponese che ha costruito il suo successo sul cashmere a pochi euro e fa impazzire parigini e londinesi, già dal 2001 ritira e ricicla le giacche dei suoi clienti per destinarle ai paesi più poveri dell'est asiatico o dell'Africa. È utile che le imprese di commercializzazione o di produzione pensino all'intera filiera del prodotto, anche quando dopo anni di armadio e naftalina c'è il rischio davvero che intasi i nostri sistemi di smaltimento. È un dovere civico, ma anche un sistema di comunicazione alternativa e di, perché no, fidelizzazione. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere per questa seconda parte dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Videogame mania è il tema della puntata di oggi. La grafica, il linguaggio, l'universo dei videogiochi contagiano ormai moda, design, marketing, comunicazione, persino arte e cultura. Dagli urban game, che trasferiscono su strada le sfide dello schermo, ai social game come Farmville, Fishville, che appassionano migliaia di utenti con agricoltura e itticoltura virtuali, pensate, dagli adventure game basati sui classici della letteratura e sulla Bibbia, fino ai giochi didattici sul risparmio energetico. Per non parlare dei fitness game o dei videogiochi basati sulla memoria che vengono usati nei centri